peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo alcune registrazioni che sono state pubblicate appunto negli ultimi mesi e che sono dei classici, di musicisti diciamo che hanno fatto la storia del jazz. E soprattutto direi che il merito va a un'etichetta discografica, la Renaissance Records, che già da un po' di tempo, da alcuni anni, si è proposta come un punto di riferimento per la pubblicazione di nastri di registrazioni fatte dal vivo naturalmente, ma non solo, in alcuni casi anche inediti discografici, magari nascosti in qualche cassetto delle case di incisione. E queste sono registrazioni dal vivo, molte ce ne sono, diverse sono anche, non aggiungono niente, diciamo, sono anche abbastanza ridondanti per quanto riguarda le conoscenze che si hanno dei musicisti che vengono registrati. E in alcuni casi invece hanno una certa importanza, per ragioni magari diverse. E cerco di raccogliere soprattutto queste pagine. Il primo disco, interessante proprio perché è un personaggio che è stato sottovalutato in vita per tutta la sua carriera. Si tratta di Kenny Dorham, trombettista di ottimo talento, un grande musicista, conosciuto come tale, riconosciuto e apprezzato nell'ambiente musicale, non abbastanza dal grande pubblico che l'ha, come dire, collocato per lo più nella serie di incisioni piuttosto di maniera per degli anni 60 per l'etichetta Blue Note. È molto il materiale registrato per la Blue Note in quegli anni, e molto del quale molti lavori sono, come dire, non delle pagine necessarie. E Kenny Dorham è un po' una vittima di questo, e poi anche una morte prematura, e, insomma, l'ha tolto dalla possibilità di essere apprezzato per quanto meritava. Intanto è un musicista che a pieno titolo ha fatto parte della storia del bebop, ha suonato con Charlie Parker, e poi con la maggior parte è sempre stato un gregario, sono tutto sommato poche le opere fatte, i lavori fatti come leader, e attraversa tutti gli anni 50 lavorando con Art Blakey nei Jazz Messengers, poi prende il posto di Clifford Brown quando nel gruppo di Max Roach, quando Clifford Brown muore per un incidente stradale insieme al pianista, al fratello di Bud Powell, e prende appunto il posto nel gruppo, ma anche lì praticamente si ricorda come uno dei musicisti, anzi il musicista che è stato tra l'importanza di Clifford Brown, che è stata straordinaria, è quella di un giovane trombettista appena affacciatosi alle sale di incisione o di concerto, che era Booker Little, che ha in qualche modo stravolto la storia della tromba di quegli anni. Quindi diciamo che la fortuna non l'ha neanche aiutato in questo senso. E poi indubbiamente nella Blue Note ha trovato una casa nella quale ha potuto dare più spazio alle proprie capacità, formando anche gruppi propri. Ecco, è uscito una registrazione del 67, Intanto mi sembra che sia del 66 l'ultima registrazione in studio fatta da Kenny Dorham. Dopo questa tournée, questi concerti fatti nel 67, sparisce un po' dalla circolazione fino ad arrivare alla morte all'inizio degli anni 70 per problemi legati ai reni. Qui lo ascoltiamo a un celebre locale, in un celebre locale, il Blue Morocco. Il disco, diciamo, questa occasione, questa registrazione è uscita, pubblicata dalla Renaissance col titolo di Blue Bossa in the Bronx. Blue Bossa è il titolo del brano più famoso di Kenny Dorham. Sono pochi i brani composti da Kenny Dorham che vengano ricordati, probabilmente questo è il più famoso. E in questa occasione si ascolta, oltre alla tromba importante di Kenny Dorham, anche un altro personaggio, Sonny Red, un sassofonista, morirà piuttosto giovane, non è conosciuto quanto merita, ed è estremamente interessante il suo fraseggio, che è un po' si ritrova in un periodo storico che va a cavallo tra questo hard bop che cerca di continuare il linguaggio bopper degli anni 50 e anche degli anni 40, e però risente anche delle nuove tendenze di quello che stava accadendo appunto nell'ambiente del jazz. Altri sidemen importanti sono Cedar Walton al pianoforte, piuttosto giovane e già piuttosto bravo, e Paul Chambers e Dennis Charles sono la ritmica, che naturalmente è di grande livello. I brani dei quali ascolteremo una parte, perché sono naturalmente ogni brano diventa pretesto per delle galoppate di assoli per dei musicisti. Il primo del quale ascolteremo una prima parte è Confirmation di Charlie Parker, giusto proprio per rimarcare la provenienza bopper del gruppo, e l'altro un Memories of You, uno standard divenuto famoso, ma firmato da Hubie Blake, che è quello che ascolteremo per intero. We'll be right back. Questo era il gruppo di Kenny Dorham con importanti sidemen come Sonny Red, un giovane sassofonista molto interessante, di cui si sa anche piuttosto poco e ha lasciato non tante testimonianze. Cedar Walton al pianoforte, Paul Chambers e Danny Charles al basso e batteria. Era una registrazione fatta a Blue Morocco. E con questo era anche l'ultimo. Passiamo ora ad un altro, direi che una sorta di intermezzo tra due registrazioni storiche, anche se ormai si può dire storica anche questa. Si tratta di Chick Corea, diciamo che siamo sulle ultime registrazioni, l'ultima occasione di ascoltarlo, perché è stato registrato nel 2020, poi Chick Corea morirà nel 21. E nel 20 appunto ha fatto alcuni concerti in piano solo, nei quali particolarmente riusciti, a mio avviso Chick Corea in piano solo era veramente straordinario, meglio che col proprio gruppo, dove si può ascoltare veramente la sua capacità pianistica. E sono preso da due concerti, quindi alcune registrazioni che sono state scelte dallo stesso Chick Corea e che sono uscite alcuni mesi fa con il titolo Forever Yours, una sorta di testamento musicale, nel quale ascolteremo i brani. Sono interessanti perché primo, una sorta di divertimento di Chick Corea, Armando Sorumba, Chick Corea si chiama appunto Armando, e poi Tinkle Tinkle di Thelonious Monk, è interessante anche la versione che ne dà, originale e pur semplice, Chick Corea, e poi il primo dei Children's Song, che è stato una delle pagine importanti di Chick Corea, accreditato come musicista anche classico. Vengono eseguiti i Children's Song, vengono eseguiti anche in sala da concerto in stagioni concertistiche classiche. Ascoltiamo appunto questa performance, questi tre brani che danno veramente la cifra delle qualità notevoli di Chick Corea. Thank you. Questo era uno degli ultimi concerti, comunque l'ultima registrazione fatta nel 20 da parte del pianoforte solo di Chick Corea, e che poi appunto morirà l'anno successivo. Brani eseguiti in maniera superba. Passando ad un altro personaggio che anche come Kenny Dorham ha avuto una certa vita sfortunata per molte ragioni, intanto perché è stato accecato per un incidente da parte di una piccola operazione agli occhi, e si tratta di Razan Roland Kirk, un musicista che ha avuto grande successo nei concerti perché era straordinaria la capacità empatica e comunicativa di Roland Kirk, ma non era molto apprezzato nell'ambiente musicale dai puristi, sicuramente perché era abbastanza ritenuto un clown, una sorta di personaggio, un fenomeno da baraccone, perché amava esibirsi per strada con le tecniche dell'esibizione per strada. Voleva stupire per esempio con l'utilizzo di più strumenti, suonando tre sassofoni insieme. E poi con l'armonica a bocca, il flauto, ecco, la tecnica al flauto, e questa cantata che poi viene ripresa dai Jethro Tull, il gruppo musicale negli anni 60, fine anni 60, e viene ripresa più, apprezzato di più nell'ambiente del pop, del rock e in altri ambiti che non dal jazz, pur essendo uno straordinario musicista, anche un ottimo sassofonista. Si deve la sua scoperta in qualche modo a Charlie Mingus, che gli diede la possibilità di registrare nel proprio gruppo, anche di suonare in tournée con lui all'inizio anni 60. Ha inciso alcuni dischi con Mingus, nel periodo forse più creativo, più importante di Mingus. Poi continuerà anche una sua attività. Diciamo che questo utilizzo di tanti strumenti, fischietti, fisarmoniche, ogni tipo di accidente, chi l'ha visto dal vivo veramente sa di cosa parlo, chi non l'ha visto sarebbe meglio che lo cercasse una registrazione live da qualche parte, perché era veramente portentoso. Alla fine degli anni 60 cambia veste, in sostanza prima tra l'altro si chiamava Roland Kirk, lui aggiunge Razan al proprio nome, quindi diventa Razan Roland Kirk, periodo in cui si cercava di mettere qualcosa di islamico nel proprio nome da parte dei neri americani. Un'altra cosa gustosa è che si chiamava Ronald Kirk, e poi lui si è cambiato il nome, si vede che ha avuto una premonizione in qualche modo, e quindi Roland Kirk ci ha voluto chiamarsi, si sa mai. E qui è stato registrato al Penthouse, un locale a Seattle, un locale frequentato in pratica un po' da tutti i grandi musicisti. Viene accompagnato da personaggi di primo piano, Ran Barton al pianoforte, Steve Novesel al basso e Jimmy Hopps alla batteria. È comunque pregevole, poi vabbè, viene anche, ascolteremo alcuni esempi proprio delle sue capacità, sia istrioniche con il flauto, sia con anche l'utilizzo della respirazione circolare con tutti gli altri suoi ammenicoli. E ascoltiamo i brani che ascoltiamo sono in sostanza una medley dove compaiono I Have Got in Bed di Billie Holiday, Sophisticated Lady di Ellington, Satin Doll sempre di Ellington e Billy Strayhorn, e Fuck Enternade, che è uno dei classici appunto col flauto. Quindi ascoltiamo queste registrazioni fatte dal vivo a Seattle. Thank you. Educated nose in the world. Era il quartetto di Roland Kirk, di Razan Roland Kirk, registrato dal vivo al Penthouse di Seattle. Il disco è intitolato e uscito sempre per la Renaissance e con il titolo di Seek and Listen Live in Penthouse. Direi un lavoro pregevole perché appunto dà l'immagine dell'ultimo periodo di Roland Kirk, dopo poi verrà praticamente eliminato da un altro problema fisico, una paresi che lo blocca tutta la parte della parte sinistra, rimane comunque a esibirsi, a suonare, continuare a suonare con una mano sola tutti gli strumenti, ma diventa sicuramente meno in grado di comunicare quello che voleva. Peraltro muore subito dopo un concerto in Inghilterra, quindi almeno ha avuto la possibilità di lavorare, esprimersi fino alla fine. Questo era anche l'ultimo disco per oggi di Razan Roland Kirk, un disco, una puntata, diciamo, dedicata al ricordo. Salve a tutti e alla prossima.